siamo solo noi quelli che non hanno età e comunque andranno, non si fermeranno mai. Siamo noi, sempre solo noi quelli che conserva la sua dignità.